ci riesce facilmente di parlare. Avremo un'esistenza più felice, lo dice Sacher e ci si può fidare. Lo so che ti piace intervenire e che ti zonda la bocca vanitosa, ma quanto è triste tu non sai.